Il 5 agosto viene liberato il giudice Pereira Mannelli, che porta con sé il comunicato numero 5 di Tupamaros, che ribadisce i precedenti. Il 6 agosto, nel comunicato numero 6, i Tupamaros danno tempo al governo fino al giorno dopo, a mezzanotte, per accettare lo scambio, dopodiché affermano sarà fatta giustizia. Quattro Tupamaros attaccano una banca e si impadroniscono di 5 milioni di pesos. Il 7 agosto un comunicato dei Tupamaros dichiarava riguardo a Dan Mitrione: si tratta di una spia americana che è stata collocata dal governo all'interno dei servizi di sicurezza dello Stato uruguaiano. Secondo quanto egli stesso ha dichiarato, è stato il consulente tecnico della Guardia Metropolitana. A questo comunicato erano allegate le fotocopie di diversi documenti d'identità che erano stati trovati su Mitrione, tra cui in particolare una tessera dell'FBI dello Stato dell'Indiana. Lo stesso giorno i Tupamaros realizzano un altro sequestro, quello di Claude Fly, dipendente di una ditta privata americana, il Servizio Internazionale per lo Sviluppo, ed entrato al servizio del Ministero Uruguaiano dell'Agricoltura per il tramite dell'AID. Lo stesso giorno viene tesa una trappola dalla polizia in un appartamento che serviva da luogo di riunione dei Tupamaros e viene arrestato un gruppo di guerriglieri, tra cui Raul Sendic. Poiché si tratta di militanti assai noti, il governo e la stampa proclamano che l'organizzazione è stata smantellata. Il gigantesco Hospital de Clinicas viene passato al setaccio nel pomeriggio da 500 uomini delle forze dell'ordine. Secondo gli specialisti, infatti, i bollettini medici che sono stati pubblicati dopo il rapimento di Mitrione non possono essere stati redatti che da una squadra di medici in possesso di un'attrezzatura chirurgica completa, cosa che corrispondeva a verità. L'8 agosto, nell'ottavo comunicato, i Tupamaros dichiarano che la vita dei loro prigionieri dipende dall'integrità fisica dei loro compagni e che se essi saranno torturati ci saranno delle rappresaglie. Il comunicato numero 9 poi annuncia l'esecuzione di Mitrione per l'indomani a mezzogiorno, qualora il governo si ostini nel suo rifiuto. In una intervista del portavoce dell'MLN Tupamaros, che si fa chiamare Urbano, a una domanda sulle ragioni dell'esecuzione di Dan Mitrione risponde: abbiamo dato loro una scadenza, abbiamo pronunciato il verdetto e li abbiamo avvertiti che se entro questo termine i nostri compagni non fossero stati liberati o se non si fosse data una risposta alle trattative, Mitrione sarebbe stato giustiziato. Quando si giunge a questo estremo, una decisione presa da un movimento rivoluzionario deve essere attuata, soprattutto dati gli antecedenti che esistevano in questo caso. Sono queste le ragioni che hanno portato all'esecuzione di Mitrione. Montevideo viene posta in stato di assedio. 12.000 poliziotti e militari la setacciano accuratamente, zona per zona. Vengono istituiti dei posti di blocco a tutte le uscite della città e le automobili e i loro occupanti vengono perquisiti. Il 10 agosto viene scoperto il cadavere di Mitrione. Vengono arrestati altri 6 Tupamaros e la polizia chiede il permesso di sottomettere, contro la loro volontà, al siero della verità per i Tupamaros. Ma la magistratura rifiuta. Durante i sequestri apparvero dei volantini, soprattutto nel quartiere operaio del Cerro e nel quartiere del Porto, dove si accusava Mitrione di essere un torturatore, Diaz Gomidei di essere in rapporto con le squadre della morte brasiliane e Fly di essere un agente della CIA. Sul sequestro di Dan Mitrione, Costa Gavras ha realizzato nel 1972 un bellissimo film che in Italia ha per titolo L'Americano e in altri paesi Stato d'assedio, con la colonna sonora di Mikis Theodorakis, che fu imprigionato ed arrestato durante il regime dei colonnelli in Grecia. Ascoltiamoci quindi ora dalla colonna sonora di Mikis Theodorakis del film L'Americano, Stato di assedio. Thank you. L'11 agosto altri arresti di Tupamaros, fra cui un pastore e un prete. Il 15 agosto il commissario Otero, capo di una sezione della polizia specializzata nella lotta contro la guerriglia, in un'intervista all'agenzia Reuters dichiarò che Mitrione aveva introdotto e consigliato l'impiego sistematico della tortura come strumento di lotta contro i Tupamaros. Nella stessa intervista valuta a 3.000 il numero dei militanti e a 4.000 i simpatizzanti attivi nell'MLN. Il 21 agosto i Tupamaros invadono la sede della Radio Rural. Tre uomini e due donne riducono all'impotenza le persone che vi si trovano e diffondono un proclama registrato. La trasmissione viene interrotta dopo un minuto. Il giorno dopo diverse manifestazioni provocano incendi all'interno di stazioni radio e di sedi di giornali governativi. Il 24 agosto 5 Tupamaros si impadroniscono di oltre 7 milioni di pesos in un magazzino di Montevideo. Alla fine di settembre viene diffuso il cosiddetto Manifesto dei Tupamaros. Ne leggiamo alcuni stralci. Il MLN non è altro che l'organizzazione politica armata degli studenti, degli operai, degli impiegati, dei braccianti agricoli, degli intellettuali, dei disoccupati. E insomma, di tutti i settori sfruttati e ridotti a un'esistenza marginale dal vostro ordine, fondato sull'ingiustizia. È da questi settori che provengono i nostri militanti. È da questi settori che provengono la nostra organizzazione e le nostre risorse. Ed è per questi settori che noi combattiamo. Noi pensiamo che i problemi del paese troveranno una soluzione quando la terra sarà al servizio della società e non di un pugno di privilegiati, quando essa produrrà tutte le ricchezze che è in grado di produrre e quando queste ricchezze saranno messe a disposizione del popolo. Quando la terra servirà a nutrire i più poveri, quando i capitali dei monopoli saranno stati espropriati dalle banche, dall'industria e dal commercio e questi tre settori chiave dell'economia saranno messi al servizio dei lavoratori e del popolo. Quando saranno spezzati i legami indegni che ci avvincono allo sfruttamento straniero e quando potremo condurre una politica estera nazionale e veramente indipendente. Quando il diritto teorico di ciascuno alla cultura, all'abitazione, alla salute e al lavoro sarà diventato una realtà e così avverrà quando vi saranno dedicate le ricchezze che oggi sono depositate all'estero e alimentano il lusso, la speculazione e le attività improduttive. quando sarà restituito al popolo e alla patria tutto il denaro che è stato rubato dalle grandi mafie, politiche ed economiche, e quando saranno puniti i colpevoli di questi delitti, quando i lavoratori potranno svolgere la funzione che spetta loro di diritto nella gestione del loro destino e di quello del paese. Ed ora ascoltiamoci un altro pezzo di Mikis Theodorakis, tratto dalla colonna sonora dell'Americano. Ai primi di dicembre 1970 viene distrutta da un'esplosione la sala da bowling di Carrasco, uno dei luoghi di ritrovo della cosiddetta buona società, delle classi privilegiate. Purtroppo la caduta del tetto provoca la morte di due Tupamaros. Fra l'8 ottobre, anniversario della morte di Che Guevara, e il 15, i Tupamaros fanno esplodere gli uffici della Coca-Cola, della General Electric e della Pan American. Nel novembre 1970, in seguito alla decisione della direzione di una piccola impresa, la Decuid, di 45 operai, gli operai hanno proposto di formare un comitato di gestione. Poiché i padroni rifiutavano questa soluzione, gli operai si sono chiusi nella fabbrica con 30 tonnellate di dinamite e hanno minacciato di far esplodere il quartiere se fosse intervenuta la polizia. Il 13 novembre i Tupamaros si impadronivano di preziosi per circa 6 milioni di dollari. La banca da loro svaligiata, ufficialmente denominata Cassa Nazionale Prestiti su Pegno, svolgeva la funzione di Monte di Pietà e molte famiglie ricche approfittavano dei suoi eccellenti dispositivi di sicurezza per depositarvi i loro gioielli. L'operazione prevedeva anche l'occupazione delle case di tre dirigenti della banca, parteciperanno all'azione 62 Tupamaros. L'MLN dichiarò che tutti i preziosi di valore inferiore a 50.000 pesos, circa 200 dollari, sarebbero stati restituiti ai loro proprietari, dopodiché il governo ha promesso di indennizzare integralmente tutti i proprietari senza eccezione. Nell'operazione i Tupamaros sequestrano il direttore, il vice direttore e il tesoriere del Monte di Pietà, in possesso delle chiavi. Quindi si fanno aprire la porta della banca da un impiegato, Daniel Guinovart, un Tupamaro che si era fatto trasferire appositamente 6 mesi prima. Per screditare i Tupamaros sulla stampa, qualcuno disse che i guerriglieri avrebbero dovuto distribuire il denaro tra i poveri per cui dicono di lottare. L'MLN rispose che i Tupamaros vogliono la giustizia, non la carità. Non distribuiscono vestiti usati, non stanno lottando per dare ai bisognosi e agli umiliati pane per oggi e fame per domani. No, i Tupamaros, l'MLN, non stanno lottando perché le cose restino come sono. Stanno lottando per consegnare al popolo un paese libero, senza padroni, né creoli né stranieri, senza sfruttati né sfruttatori, una società in cui tutti, assolutamente tutti, abbiano assicurato il diritto al lavoro, al sostentamento, alla salute, all'istruzione, a una vecchiaia decorosa. Il 3 dicembre i Tupamaros riducevano al silenzio alcune delle reti televisive più reazionarie del paese. L'11 dicembre attaccavano la Banca Interamericana per lo Sviluppo. L'8 gennaio 1971 i Tupamaros rapivano l'ambasciatore della Gran Bretagna a Montevideo, Geoffrey Jackson. Il governo uruguaiano dichiarava subito la sua opposizione ad ogni trattativa intesa ad ottenere la sua liberazione. Il 5 febbraio in Uruguay si costituisce il Frente Amplio, che raggruppa 27 partiti o organizzazioni di sinistra diverse. I Tupamaros decidono di dare il loro appoggio a questa iniziativa, ma cercando di chiarire in un documento la loro posizione in merito. Leggo alcuni stralci. Siamo onestamente convinti che nell'Uruguay attuale le elezioni non costituiscono il mezzo per fare la rivoluzione. È un errore imitare le esperienze che sono state realizzate in altri paesi. Il Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros ritiene positiva la formazione di un'unione popolare che raggruppa settori così vasti, pur deplorando il fatto che questa unione abbia atteso le elezioni per realizzarsi. È da molto tempo che tutte le lotte represse e tutti i combattenti, operai, licenziati, prigionieri e vittime delle torture, ammirevoli militanti assassinati che hanno lottato per uno stesso ideale di giustizia sociale, avrebbero dovuto unirci contro un nemico comune. Ciò può rappresentare uno strumento potente di lotta a favore di un programma nazionalista e popolare, della libertà dei prigionieri politici e dei sindacalisti, per la riassunzione dei lavoratori licenziati, per la revoca totale delle misure di sicurezza e di tutti i decreti che sono stati emanati durante la loro applicazione. I Tupamaros proseguono la lotta armata nella clandestinità. Il 21 febbraio 1971 i Tupamaros rimisero in libertà il console brasiliano in cambio del riscatto di $1 milione che avevano chiesto a sua moglie. Il 3 marzo Claude Fly, che era stato colpito da un infarto e che Tupamaros avevano tra virgolette amnistiato, veniva deposto in una barella davanti all'ospedale britannico. Successivamente vengono saccheggiate le lussuose residenze di La Moraglia, suocero di Jorge Baidie, l'eminenza grigia del governo di Pacheco Areco, del vice ministro della cultura, di un segretario di Pacheco Areco e di alcuni alti funzionari. Sui muri verranno lasciate scritte come «Le vacanze saranno per tutti o non saranno per nessuno». Queste azioni, che sono spesso condotte al ritmo di 2 o 3 al giorno, si svolgono parallelamente alle azioni di guerriglia vere e proprie. E sono ora affidate ai CAT, comitati di appoggio ai Tupamaros. La costituzione di questi comitati era stata annunciata in questi termini da uno dei capi del movimento, che si fa chiamare Urbano. In una intervista data alla fine di settembre a un giornalista dell'agenzia di stampa Pressa Latina, in cui dice: «C'è una sproporzione fra la nostra influenza all'interno della popolazione e la nostra capacità di dare delle strutture a questa influenza. Ci sono molte persone che sarebbero disposte a collaborare con noi e che le caratteristiche della nostra organizzazione non ci permettono di avvicinare. È ad esse che si rivolge questo appello, a costituire quelli che si potrebbero chiamare comitati di appoggio ai Tupamaros». E poi prosegue: «Per quanto riguarda gli arresti, la nostra esperienza di Montevideo dimostra che essi si verificano con grande regolarità. Ogni settimana, ogni quindicina, ogni mese vengono arrestati dei compagni. La cifra aumenta. Se i legami tra i Tupamaros e l'insieme della popolazione non fossero stretti, ciò potrebbe condurre a uno smantellamento dell'organizzazione. Ma lo sviluppo del movimento è abbastanza rapido perché i vuoti prodotti dagli arresti siano compensati immediatamente e senza difficoltà». Ed ora sentiamoci un altro pezzo di Mikis Theodorakis, sempre tratto dalla colonna sonora dell'Americano, dal titolo Tupamaros. Thank you. Il 15 marzo 1971 venivano attaccate le abitazioni di due membri della Guardia Metropolitana, mentre un capitano dello stesso corpo repressivo veniva avvertito che il termine di 5 giorni che gli era stato dato dal CAT del Serro per abbandonare il suo domicilio in quel quartiere operaio sarebbe scaduto il giorno dopo. Nella notte del 6 settembre 1971 ben 111 detenuti riuscirono a fuggire dal carcere di Punta Carretas, quartiere di Montevideo. L'operazione fu realizzata dall'MLN Tupamaros. Scavando circa 10 cm al giorno, i detenuti riuscirono a passare sotto le mura del carcere. Il 1 marzo si insediò in Uruguay il nuovo presidente Juan María Bordaberry, che intensificò la repressione e la caccia ai Tupamaros. La ricerca dei guerriglieri fu affidata principalmente ai militari, con la collaborazione della polizia, e fu creata un'apposita struttura denominata Joint Forces. L'uso della tortura fu intensificato. Molti militanti Tupamaros venivano arrestati. Parallelamente, i militari adottarono la pratica delle eliminazioni mirate, condotte in maniera occulta. Si crearono in pratica degli squadroni della morte. Il fenomeno dei desaparecidos anticipò quello che poi sarebbe diventato la prassi in Argentina. La terribile repressione messa in atto da Bordaberry era rivolta contro i Tupamaros, ma aveva ancor più lo scopo di schiacciare il forte movimento sindacale e anche l'opposizione del Frente Amplio, che raccoglieva Fidel, il fronte che includeva il Partito Comunista, e gruppi più piccoli come l'Union Batlista Avanzar e il Movimento Popular Unitario e diverse figure indipendenti, il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana, la Lista 99 guidata dal senatore Michelini, separatasi dal Partito Colorado, il Movimento Blanco, la Popular i Progressista, il Movimento Rivoluzionario Orientale e il Partito Trotskista. Esponenti di questi partiti vennero imprigionati, torturati e in non pochi casi uccisi con l'accusa che si trattava di guerriglieri o loro fiancheggiatori. Il 14 aprile fu catturato Eleuterio Fernández Huidobro, uno dei dirigenti dell'MLN. Il 27 maggio fu scoperta la prigione del Popolo, una casa nella quale erano stati detenuti i principali sequestrati dai Tupamaros. Il 1 settembre venne nuovamente arrestato Raúl Sendic. Il 26 giugno furono catturati un gran numero di Tupamaros, tra i quali Jorge Zabalza, Pepe Mujica, già arrestato ed evaso 3 volte, Lucia Topolansky, compagna di Mujica, e Mauricio Rosenkopf. Il 27 giugno 1973 il presidente Bordaberry accolse le pressioni delle forze armate e, rimanendo presidente, cedette di fatto il controllo governativo ai militari, attuando un colpo di Stato concordato che fu chiamato autogolpe. Fu instaurata una dittatura che soppresse il Parlamento, sostituendolo con un Consiglio di Stato con membri designati dai vertici militari, organo che accentrava in sé potere legislativo, esecutivo, di controllo amministrativo ed il progetto di redigere la Costituzione, assegnando alle forze armate il compito di assicurare il funzionamento ininterrotto dei servizi pubblici. Inoltre mise fuori legge i partiti politici. Gli organi di stampa vicini ai partiti tradizionali Blancos e Colorado diventarono gli organi di stampa ufficiali del regime. La reazione popolare fu immediata e coraggiosa. Iniziò un lungo sciopero generale che paralizzò il paese per 2 settimane. Si susseguirono manifestazioni. Il regime di Bordaberry rispose mettendo fuori legge la CNT e imprigionandone i dirigenti, che vennero torturati e condannati a pene durissime. Il senatore Zelmar Michelini, che al momento del golpe si trovava in Argentina, dovette restare in esilio in questo paese, da dove denunciò nel 1974 davanti al tribunale Russell i crimini della dittatura e finendo poi assassinato dagli squadroni della morte della polizia argentina. su richiesta dei militari uruguaiani, nel quadro dell'operazione Condor. Circa 7.000 persone sparirono e furono sequestrate, torturate e uccise dal regime. I Tupamaros furono quasi tutti uccisi o imprigionati. Gli arrestati furono tenuti per anni in condizioni carcerarie inumane, in stato di continua sofferenza. Gli era vietato di leggere o scrivere, di avere contatti tra loro o con altre persone. Furono calati dentro pozzi e costretti spesso a portare un cappuccio, allo scopo di distruggerli psicologicamente e portarli alla pazzia, come poi documenterà anche la Croce Rossa Internazionale. Venne loro assegnato lo status di ostaggio, cioè, qualora l'MLN compisse qualunque azione, sarebbero stati immediatamente uccisi. Sulle terribili condizioni di prigionia dei Tupamaros c'è un film dal titolo Una notte di 12 anni, del regista uruguaiano Alvaro Breckner. Ascoltiamoci quindi, dalla colonna sonora di Una notte di 12 anni, The Sound of Silence, nella versione eseguita da Silvia Perez Cruz. Hello, darkness. Hello, darkness, my old friend. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. And in the naked light I saw a thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no wonder I'm disturbed to sound. People bowed and prayed, prayed, prayed, prayed to the neon god they made. And the siren flashed out its warning in the words that it was for me. And the siren said the words of the prophets are written as our words and in tenement halls and whispers. Of silence and whispered, and the sound of silence and whispered, and the sound of silence. I pochi Tupamaros ancora liberi si ritrovarono isolati, in parte si dispersero e molti andarono in esilio, soprattutto in Cile e Argentina. Alcuni si integrarono nel MIR cileno e nell'ERP argentino, ma con i golpe di Pinochet e Videla dovettero presto trasferirsi in altri paesi. Tra di loro si crearono forti divergenze su come affrontare il futuro dell'organizzazione. Alla fine del 1973 tali divergenze portarono gran parte dei dirigenti del Movimento de Independientes 26 de Marzo, l'organizzazione politica dell'MLN, ad allontanarsi dall'organizzazione militare. Iniziò a delinearsi fra i Tupamaros prigionieri a Montevideo una nuova strategia politica, non più basata sulla lotta armata. Nel 1976 le forze armate rimossero Bordaberry, sostituendolo con Alberto De Micheli, il quale poco dopo nominò come Presidente della Repubblica Aparicio Méndez. Il 30 novembre 1980 la popolazione, chiamata ad approvare per referendum un progetto di riforma costituzionale elaborato dai militari, lo respinse. Nel 1981 il generale Gregorio Alvare, assunta la presidenza, indisse le elezioni politiche per il 1984, che si svolsero con tutti i partiti storici fuori legge, che però si dovettero presentare con denominazioni nuove. La vittoria andò al Partito Colorado e il 1 marzo 1985 si insediò come presidente Julio María Sanguinetti. Era finita la dittatura. Un'amnistia cancellò ogni reato di violenza sia da parte dei guerriglieri sia da parte della polizia e dell'esercito. I Tupamaros furono liberati e alla fine del 1985 si riunirono con i militanti usciti dalla clandestinità o ritornati dall'esilio. A questa riunione parteciparono circa 500 militanti. Furono stabiliti accordi di base. Fu deciso che sarebbe stato necessario più tempo per discutere e impegnarsi nella pratica sociale. Dal 20 al 22 dicembre 1985 si svolse la terza conferenza di organizzazione con la partecipazione di oltre 1000 delegati. Vennero ribaditi i valori e gli obiettivi di fondo del movimento, rivendicando il passato politico. Fu riconosciuta la possibilità di condurre la propria lotta per via legale in un paese completamente cambiato ed affermata la volontà di partecipare alla vita pubblica e alla competizione politica. Nel 1989, anno della morte per sclerosi laterale amiotrofica di Raul Sendic, il Movimento de Independientes 26 de marzo fu ammesso nel Frente Amplio. Poco dopo, sempre all'interno del Frente Amplio, gli ex Tupamaros si allearono con altre forze costituendo il Movimiento de Participación Popular, un movimento di lotta per la liberazione e il socialismo, non solo di carattere elettorale, ma di lotta politica in tutti i campi possibili. Nel 1999 l'MPP divenne la componente egemone del Frente Amplio. Alle elezioni tenutesi il 31 ottobre 2004, il Frente Amplio ottenne il 50,4% dei voti, vincendo le elezioni. Per la prima volta nella sua storia l'Uruguay aveva un governo di sinistra e due storici guerriglieri Tupamaros, Pepe Mujica e Nora Castro, venivano nominati rispettivamente ministro dell'allevamento e dell'agricoltura e della pesca e presidente della Camera dei Deputati. Il 30 novembre 2009 Pepe Mujica fu eletto presidente dell'Uruguay, entrando in carica il 1 marzo 2010 e rimanendovi fino al 1 marzo 2015. Per chi volesse approfondire, ci sono i due film citati, L'Americano di Costa Gavras e Una notte di 12 anni di Alvaro Breckner. Ci sono anche diversi libri, di Alain Labrousse, I Tupamaros, la guerriglia urbana in Uruguay, e poi I Tupamaros in azione, testimonianze dirette dei guerriglieri, di Raul Sendic e Rio da Mucha Suelta, però sabe a donde vas. scaricabile in rete. Di Maria Esther Giglio, Guerriglia Tupamara. Inoltre l'MLN Tupamaros mantiene un sito web all'indirizzo https://mlntupamaros.org.uy. Si conclude qui questa terza e ultima puntata dedicata ai Tupamaros.